sentries get so mad. Benvenute a tutte e tutti, compagni e compagni all'ascolto. Siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, entropia massima antropologica. Oggi è il 31 marzo, ma questa puntata l'ho registrata la scorsa settimana a Parigi perché, come avevo già avuto modo di dirvi, antropologica quest'anno trasmette da Oltralpe. E l'antropologia che incontriamo oggi si occupa della salute perinatale delle donne migranti in Francia provenienti dal subcontinente indiano e ne parliamo con un ospite davvero eccezionale, con Lucia Gentile. Lucia è antropologa e indologa, ricercatrice in antropologia della nascita ed è anche una doula, cioè una figura professionale volta a sostenere le donne durante il percorso che va dalla gravidanza al postparto. In tutti questi campi d'azione Lucia è impegnata nella promozione di un uso sociale della conoscenza e delle pratiche antropologiche, sempre nell'ambito della maternità e della prima infanzia. Le ricerche che svolge sono orientate in particolar modo allo studio delle disuguaglianze sociali nella salute perinatale delle donne indiane, sia proprio in India, dove ha fatto numerosi anni di lavoro di campo, quindi di terreno, sia proprio anche in Francia, quale paese di approdo migratorio e paese, come vedremo, che ha scelto per vivere. Tra le numerose attività scientifiche che svolge è attualmente coordinatrice scientifica del Dipartimento Health, cioè Salute, dell'Institut Convergence et Migration di Aubervilliers, che è un dipartimento a nord di Parigi. Tutti i pezzi musicali che ci terranno compagnia stasera sono stati scelti da Lucia, sono sonorità del sud-est dell'Asia, del sud dell'Asia, che non restano sullo sfondo ma che accompagnano la sua narrazione dall'inizio alla fine. E allora, ascoltiamoci insieme la trasmissione con Lucia Gentile, che ringrazio ancora moltissimo per la generosità e per lo scambio veramente ricco e nutriente e anche e soprattutto per portare avanti un tipo di ricerca che ci riguarda tutte da molto vicino. Anna! Chaki chal rahi kabira betha roi dono pur ke beech mein to sajan nikle de koi chakki chal rahi kabira betha joi ઘૂંટા પકડો નિજ નામ કા તો સાજા નિકલે જો સોઈ છોડ કે માતા દા એક લીરા બન જારા રે બન Da da da Chud ke mat dao ek lira ban da da da ban da da da साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे sulla frequenza di Radio Onda Rossa, siamo in voce con Lucia Gentile e grazie Lucia di essere qui con noi. Lucia è, come abbiamo detto prima, è un'antropologa ed è anche un'indologa, quindi veramente grazie. Grazie a te, sono molto contenta di essere qui e di poter dunque presentare le mie ricerche qui a Radio Onda Rossa. Grazie Lucia, e beh, oggi ci parli di un tema che non è un tema molto, molto conosciuto, quantomeno a me. Ci parli di un tuo progetto di ricerca, beh, di vari in realtà progetti di ricerca che ti vedono impegnata nella salute delle donne migranti, della salute perinatale delle donne che provengono in particolar modo dal subcontinente indiano. Ti lascio la parola. Grazie, sì. Prima di tutto vorrei un pochino situare la mia ricerca, perché effettivamente queste donne vengono dal subcontinente indiano, ma volevo specificare quali sono gli stati che compongono questa regione. Grazie, sì, perché dire subcontinente indiano sembra un macro contenitore che spesso, come dicevamo prima, extra radio, non ha confini ben definiti per tutti, tutte. No, infatti, perché in verità a livello geografico sono dei confini abbastanza definiti, però in verità poi dopo non riporta rappresentazioni varie, diciamo che quindi compone il Bangladesh, lo Sri Lanka, l'India, il Pakistan, il Nepal, il Bhutan e alcuni anche integrano l'Afghanistan. Quindi questo per farci capire un po' dov'è il subcontinente indiano, che in verità è molto importante, perché appunto nel mio progetto di ricerca io appunto cerco di tracciare il percorso perinatale, le esperienze perinatale di queste donne che provengono da questi territori e che però partoriscono e sono seguite in Francia, in particolare in una regione a nord di Parigi dove c'è un'ampia concentrazione di queste popolazioni. E quello che succede quando io appunto entro per esempio in maternità, quando chiedo per esempio ai medici se seguono delle donne provenienti dall'Asia del Sud o del subcontinente indiano, loro ovviamente mi dicono: sì, io ieri ho seguito una donna cinese, ecco. Quindi c'è proprio una grande la necessità di ribadire quali sono i confini sociogeografici, anche socioculturali, insomma, degli immaginari. Assolutamente, anche perché queste sono delle popolazioni che sono molto invisibilizzate, proprio da un lato perché in Francia in particolare abbiamo la maggior parte delle ricerche sulle popolazioni migranti si focalizzano su popolazioni che sono state anticamente colonizzate comunque dalla Francia, quindi abbiamo piuttosto un interesse verso l'Asia del sud-est, per esempio Vietnam, o per esempio tutto il Nord Africa o l'Africa subsahariana, che quindi continuano ad avere dei legami colonizzazione con questi paesi. In verità anche in India c'è stata una piccola colonizzazione francese, tipo a Pondicherry, ma ovviamente questo tipo di colonizzazione ce la si dimentica perché è così piccola, anche se in verità c'è comunque tutte delle popolazioni che sono riuscite a venire in Francia grazie a questa antica colonizzazione e in verità, come stavo dicendo, queste popolazioni sono invisibilizzate ma sono molto presenti sul territorio, anzi sempre di più è una popolazione in crescita, in particolare quella del Bangladesh. È una delle tematiche appunto chiave che sono delle popolazioni che non sono francofone e che quindi, certo, al contrario delle popolazioni che sono state colonizzate dalla Francia e che quindi più o meno possono parlare francese, queste popolazioni parlano diverse lingue locali, ma nel caso comunque hanno come lingua veicolare piuttosto l'inglese, che è una lingua che in Francia, soprattutto in ambiente medico, non è parlata. Tanto parlata. No, infatti. E quindi nel mio progetto quello che cerco di analizzare è di capire quali sono le difficoltà che in particolare queste popolazioni hanno, quali sono le particolarità rispetto ad altre popolazioni e di sicuro la, diciamo, particolarità principale che è riuscita sono la problematica linguistica, che la troviamo di meno ovviamente in altre popolazioni anticamente colonizzate e le ritroviamo molto di più in per esempio in queste popolazioni provenienti dal subcontinente indiano. E quindi nella mia ricerca cerco di capire in particolare come il non parlare francese può avere un impatto sulla salute sia sul percorso comunque di salute perinatale delle madri, sia comunque sulla salute riproduttiva della madre e anche sulla salute poi dopo del bambino. Certo. E a proposito di problematica linguistica, come fai tu a fare la ricerca con questo tipo di popolazione femminile? Come ci parli? Effettivamente ho dovuto studiare le lingue. Che è una cosa, una bazzecola, diciamo, no? Beh, insomma. Appunto. Infatti una cosa che mi preme sottolineare è che appunto, come detto già in introduzione, io sono comunque indologa oltre che antropologa, nel senso che il mio interesse per l'antropologia è nato soprattutto attraverso il mio interesse e il mio amore per l'India e la mia volontà quindi di andare a conoscere questo stato e di poter parlare con le persone. Quindi ho voluto studiare l'hindi e anche l'urdu, ho cercato anche di studiare un po' di gujarati e quindi queste lingue in più che oltre l'inglese e anche le mie basi in sanscrito, perché appunto ho fatto anche una formazione in sanscrito che mi ha permesso anche di tradurre comunque i testi sacri, i testi medici anche per esempio, quindi mi ha permesso per esempio di comparare le pratiche ayurvediche comunque che sono diciamo perpetuate dalle donne con i testi invece ayurvedici e questo bagaglio mi è stato assolutamente essenziale sia per le mie ricerche in India che assolutamente per le mie ricerche qui con le popolazioni dell'Asia del Sud, perché queste popolazioni parlano anche, per esempio, le donne del Bangladesh spesso parlano l'hindi perché per esempio crescono vedendo Bollywood o perché anche appunto vabbè in Pakistan si parla l'urdu, ma per le lingue che poi dopo non ho studiato, perché comunque questo diverso. In questa regione troviamo tantissime lingue diverse con radici comunque diverse. Per esempio il tamil, la lingua tamil, ho potuto far riferimento a delle interpreti mediatrici, due donne stranamente, quindi una per il tamil e l'altra per il bengali, quindi per le donne del Bangladesh che però non sapevano parlare l'hindi o l'urdu. Ho potuto quindi fare affidamento a queste due donne interpreti, quindi nate comunque una di seconda generazione, ma comunque la cui lingua madre è il tamil e il bangla, e che mi hanno accompagnato quindi negli incontri con le donne. Sì, è veramente interessantissimo tutto quello che ci dici. In particolare sto facendo esperienza qui a Parigi della forse correggimi, un po' dell'assenza della figura del mediatore culturale, così come noi lo conosciamo in Italia, e invece dell'utilizzo frequente, che anche ha una sua importanza notevole, devo dire, dei servizi di interpretariato telefonici, che però sono proprio un altro campo da gioco. Non so se puoi aprire una parentesi su questo discorso che mi interessa molto e di cui faccio veramente esperienza quasi quotidianamente nel mio lavoro in ospedale. Sei già molto fortunata che c'è qualcuno che interessa gli interpreti via telefono, perché al contrario nella mia esperienza, in maternità poi è comunque un settore un po' più particolare, perché soprattutto durante il parto non è difficilissimo comunque poter ricorrere a degli interpreti anche via telefono, e quindi c'è una completa assenza dell'utilizzo di questi interpreti. Ma la cosa interessante in Francia è che in verità le strutture pubbliche hanno comunque un budget riservato per poter richiedere degli interpreti e per poterli pagare, e quindi effettivamente ci sarebbe la possibilità di poter chiamare questi interpreti o fisicamente o via telefono. Il fatto è che prima di tutto alcuni professionisti della salute non sono al corrente di questo budget, e anzi considerano che se lo utilizzassimo per tutte le persone non francofone l'ospedale andrebbe in bancarotta. Quindi comunque c'è già di base una grande scelta su a che momento possiamo nel caso chiamare un interprete e per quali urgenze, per quali... se vuoi ho tantissimi esempi di come in verità, e se vuoi posso anche poi dopo entrare nei dettagli di come quindi si cerca di comunicare quando non c'è un interprete, come si ha una vaga, diciamo, idea che stiamo comunicando, che stiamo trasmettendo delle informazioni, quando in verità non sempre è così. Mi sembra veramente chiave anche in quello che dici, se non ti porto lontana dalla ricerca, anche perché mentre parlavi immaginavo appunto una sala parto in cui non sono mai stata, ma in cui ho letto molto, soprattutto lavori di colleghe e termini antropologici ovviamente, e immagino l'assenza di comunicazione, cercavo di immaginare mentre parlavi l'assenza di comunicazione, e cercavo di immaginare quanti codici semantici, linguistici, socioculturali passano, di quanti malintesi, e quindi pensavo proprio al tema alla salute perinatale di cui ti occupi, quindi sì, mi interessa molto che tu ci dia una tua opinione, la tua esperienza, insomma. No, infatti è fondamentale, è proprio una delle cose che è uscita da questa ricerca, che ho cercato un pochino di ritracciare, capire come si ci capisce o non si capisce, perché in verità spesso esce fuori quello, che sia solo un'illusione di capirci, ma in verità non ci stiamo capendo. Perché quello che succede è che sono le donne che sono responsabilizzate ad avere un traduttore, ad avere a comunicare. Nel senso che le pazienti. Quindi anche se c'è un budget dedicato, molti professionisti preferiscono dire no, sei tu che non parli francese, sei tu che sei qui, che vuoi vivere in Francia, sta a te prima di tutto imparare il francese, e se non lo parli trovare un modo per comunicare. Quindi se la paziente non viene con qualcuno che l'accompagna, solitamente si passa per Google Translate, che come hai già visto, e come sai che comunque ci sono molte ricerche, dimostrano che in verità Google Translate non è effettivo, soprattutto per quanto riguarda una traduzione di un lessico medico dal francese al tamil, dal francese al telugu, al kannada, cioè poi tutte anche le lingue minori che possiamo trovare in India, come poi dal francese tradurle in altre lingue. È molto difficile, hanno fatto anche degli studi mostrando come delle stesse frasi sono tradotte diversamente da Google Translate, e mi sembra proprio che, mi sembra per, o per l'urdu o per il bengali, una frase del tipo vabbè, stai male diventa stai morendo, quindi che proprio certo. Non è affidabile, no, diciamo, per niente, certo. Però dà un'illusione di affidabilità, dà un'illusione di ci stiamo parlando, stiamo comunicando, anche perché soprattutto in verità per le donne analfabeti è molto comoda, perché tu puoi parlare e traduce direttamente, puoi ascoltare la risposta, però in verità non ci si capisce. Quello che è successo per esempio è che spesso sono ho incontrato per esempio un'ostetrica pakistana, che quindi lei era un po' obbligata a fare il giro di tutte le stanze delle donne che parlavano urdu, perché queste qui quando le incontrava le dicevano io non ho capito niente di quello che mi hanno detto, e invece quando incontravo i professionisti, cioè i medici, le ostetriche, spesso alcune volte mi dicevano sì, tanto con Google Translate ci capiamo, non c'è nessun problema, basta Google certo. Translate. Altrimenti le donne, se non vogliono passare da Google Translate, perché quello che è successo è che alcune donne che ho incontrato mi hanno detto che si sono rifiutate e hanno deciso di annullare all'ultimo degli appuntamenti perché non avevano nessuno che le accompagnava, perché non volevano passare per Google Translate, perché loro non riuscivano a capire. Quindi comunque le barriere linguistiche portano anche a a un'interruzione del percorso comunque certo. perinatale, cioè comunque diminuisce comunque interrompe comunque il mi sono il, no no il lavoro di no no ma anche la, stavo pensando il lavoro di cura perché pensavo anche però se da una parte ovviamente è una barriera di salute incredibile quella che ci stai descrivendo, dall'altra parte pensavo, vedi, le donne di cui ci stai parlando come reagiscono però a questa violenza, perché di violenza a mio avviso sì. si tratta, cioè vedi come fanno opposizione rispetto a una prima, una seconda visita in cui di fronte alla proposta di un Google Translate e quindi a una non comprensione reciproca la donna ti dice no beh io in effetti però questa cosa non la comprendo, non mi va bene, quindi c'è un posizionamento, non so se chiamarlo così. Sì, poi in alcune donne è più visibile che in altre, nel senso che alcune è stato molto interessante, ultimamente ho visto due percorsi relativamente simili di due donne che parlavano, quindi nessuna delle due parlava francese, una si metteva proprio, aveva molta più, come dire, riusciva a riconoscere queste violenze, riusciva a riconoscere, cercare in qualche modo di costruire il proprio percorso dicendo no, io non sottosto a questo, io cerco di avere un servizio che, a cui, insomma, di cui sono più felice, e invece altri che diventano comunque dei pazienti passivi, e da questo non è difficile comunque uscirne, cioè da un lato comunque sta agli strumenti che hanno le donne personalmente, però di sicuro la struttura come adesso non facilita comunque l'agency, quindi comunque il fare delle donne, l'autonomia comunque riproduttiva delle donne. Hai notato se questo posizionamento, come l'ho definito prima, fa parte più di donne, cioè l'hai notato in più in donne scolarizzate oppure è un fattore che non è irrilevante tutto sommato? Beh, non direi che è irrilevante, però spesso dipende molto anche proprio dal carattere della donna, dalla resilienza in qualche modo direi della donna, nel senso quante già ne ha passate, quanto ancora, quanta forza in qualche modo ha anche raccolto nel suo percorso. Però di sicuro quello che viene fuori dalla mia ricerca è che comunque queste donne non possono che avere resilienza, nel senso che soprattutto in un percorso di gravidanza e soprattutto quando nasce il bambino, poi sono più chi meno, ma molto concentrate sulla salute del bambino piuttosto che la propria salute e il proprio percorso, nel senso che da quel momento in poi c'è questo bambino a cui bisogna comunque far fronte, e soprattutto, visto che soprattutto in ambito migratorio, anche se in Italia come in Francia è comune a molte donne, comunque c'è molta solitudine nel postparto, che comunque crea molte problematiche a livello psicologico, queste donne cercano di avere più strumenti possibili per andare avanti per il proprio bambino. Certo. E si tratta di donne, nella tua esperienza, che hanno un percorso migratorio in solitudine o raggiungono le proprie famiglie qui? Che tipo di migrazione è la loro? Infatti questo è un altro punto molto importante, nel senso che le popolazioni, la migrazione delle popolazioni provenienti dal subcontinente indiano è molto vario, soprattutto qui in Francia, nel senso che storicamente comunque ci sono alcune migrazioni, appunto ex colonie da Pondicherry, anche se sono molto piccole, quindi diciamo percorsi relativamente facili, altri percorsi invece molto più difficili, sono molto eterogenei, e così anche i percorsi delle donne sono molto eterogenei, ma possiamo anche un po' definirli secondo le provenienze geografiche. La Francia ha ospitato molti donne e uomini provenienti dallo Sri Lanka durante il periodo della guerra civile, quindi di sicuro i percorsi delle donne post o durante la guerra civile è molto diverso dai percorsi invece di donne che vengono dal Bangladesh. Ci sono sempre di più delle donne che vengono da sole dal Bangladesh, ma solitamente dal Pakistan e dal Bangladesh sono percorsi di ricongiungimento familiare. Quindi uomini che sono venuti prima per questioni economiche o anche politiche, e che poi o si sposano comunque al loro paese o comunque con un membro della propria comunità, e poi dopo fanno venire la propria moglie, nel caso anche i propri figli, in un secondo momento. E di sicuro questi percorsi sono diversi da percorsi, ma anche il tipo di violenze che possono aver esperito nel paese o prima sono molto diversi tra di loro. Ed è diverso per esempio anche invece delle donne per esempio indiane che possono venire qui, c'è un grande progetto di possibilità di studio tra la Francia e l'India. Gli studenti possono avere un visto di 5 anni, ed è abbastanza eccezionale, e quindi molti studenti vengono qui per studiare, alcuni riescono anche a poi dopo a rimanerci, a fare una famiglia, e quindi in questo quadro abbiamo comunque delle migrazioni completamente di persone comunque cioè nel senso con un bagaglio comunque scolastico molto superiore, che nel caso può anche decidere di rimanere, certo, qui in Francia. E seguirei tantissime piste che mi hai aperto, ma diciamo ne prendo una sola per non chiederti di rimanere altre 4 ore in trasmissione. E, rispetto al parto, perché ti facevo la domanda del tipo di migrazione, perché mi chiedevo poi rispetto alla solitudine di cui parlavi, alla comunicazione che hai tessuto prima e alla solitudine postpartum e alla crescita di un bambino o di una bambina, che cosa significa essere una migrante recentemente arrivata o una donna sola o una persona recentemente arrivata invece con un ricongiungimento familiare che non sia però soltanto del proprio marito, del proprio compagno, ma anche di una famiglia, magari della propria famiglia alle spalle. Quindi mi chiedevo un po' se potessi aiutarmi a fare un quadro di questo tipo di situazioni. Cioè lì dove la donna può essere appunto sola in un contesto di piuttosto direi di incomprensione importanti a livello forse anche di gravidanza oltre che di parto e di postparto. Mm-hmm. Quello che succede è che appunto, come dicevo prima riguardo per esempio la comunicazione, è che nel momento in cui sono le donne che sono responsabilizzate, le pazienti che sono responsabilizzate per quanto riguarda la gestione della comunicazione, molto spesso le donne devono o richiedono a altre donne o qualche membro della comunità, quindi comunque vuol dire avere una rete, avere una famiglia, avere qualcuno che può sostenerla anche a livello linguistico, oppure in verità per lo più quello che incontro è che molto spesso sono i mariti che vengono a fare da interpreti e da traduttori, che in verità questo è molto interessante, che ho cercato di analizzarlo nella mia ricerca, perché mobilizza molto di più la figura del marito rispetto a quello che sarebbe stato, per esempio, nel subcontinente indiano. Vuol dire che il marito è molto più implicato nella gravidanza, nel parto. Sono mariti che in India non possono neanche entrare nella sala parto, e invece qui sono anche quasi obbligati, nel senso, perché sennò vuol dire lasciare la propria moglie a non poter comunicare con il personale medico. Quindi è interessante come in qualche modo la migrazione cambia comunque le relazioni coniugali e comunque anche familiari, creando comunque, da quel che ho visto, una grande prossimità tra marito e moglie, cosa che non è sempre possibile in India, perché al contrario c'è questa grande figura della suocera, della presenza della suocera che divide un po' la coppia, e dinamica che invece viene un pochino ribaltata in immigrazione, soprattutto perché spesso è la coppia da sola che migra e quindi si ritrova un po' con un vuoto comunque familiare attorno, oppure anche in presenza della suocera di altre comunque generazioni, lega molto di più, diciamo, la coppia. E quello che succede appunto soprattutto nel postparto è una grande implicazione del padre nelle cure del bambino, cosa che è poco presente nella classe media e nelle classi popolari indiane, e sta iniziando un pochino in alcuni altri settori a vedersi sempre di più. Proprio per quello che stai dicendo, a tuo avviso, ma proprio secondo la tua esperienza di campo, quando c'è una risignificazione così importante anche della figura maschile, tu trovi che ci sia anche un'ingerenza? Ci può essere un'ingerenza importante su un momento in cui, appunto, del parto, della gravidanza al parto, diciamo, da parte del proprio compagno, del proprio marito? Cioè, può essere, come dire, non soltanto un prendere la parola, se eventualmente, immagino, un ricongiungimento familiare, dunque magari c'è una competenza linguistica anche superiore a chi è invece recentemente arrivato, in questo caso se è la donna che si ricongiunge. Quindi mi chiedo quanto questo può diventare, oltre a come dire, da una parte un fenomeno molto interessante da osservare, da un'altra parte un'interessante risignificazione dei ruoli, da un'altra ancora mi chiedo se ci possa essere invece un'ingerenza maschile, che per esempio mi è capitato di vedere molto in Italia, collaborando con degli ambulatori di ginecologia, con altre popolazioni. No, ma di sicuro le problematiche, che non sempre è molto chiaro, nel senso che di sicuro c'è una differenza di genere nelle capacità linguistiche, perché spesso è la donna che arriva dopo e che quindi in qualche modo c'è un'evidenza che è l'uomo che comunque ha più competenze linguistiche della donna. Però effettivamente il fatto, la grande presenza dell'uomo durante il parto e durante tutto il percorso perinatale, per quanto lo possa implicare di più, può anche darsi che non permetta, per esempio, di mostrare le violenze che ci sono dentro la coppia, o comunque non permetta alla donna di avere un'autonomia riproduttiva per quanto riguarda, per esempio, la gestione proprio anche o del parto, della contraccezione poi dopo, e proprio per questo spesso gli stessi comunque professionisti della salute sono un pochino ambivalenti sulla figura del marito davanti. Da un lato sono contenti di avere un interprete, qualcuno che gli possa permettere di parlare, sono contenti di vedere una figura maschile implicata comunque nelle cure, ma allo stesso tempo sono consapevoli che la presenza del marito possa portare di sicuro a delle cure traduzione letterale dal francese, soprattutto per quanto riguarda le violenze domestiche, ma non solo, anche mi è capitato, per esempio, di seguire una consultazione di questa donna pakistana incinta con la propria ostetrica, che in quel momento il marito non parlava francese, invece avevano chiamato al telefono il cognato, il fratello del marito, e questo fratello del marito doveva quindi tradurre tutto quel che riguardava contraccezione, ultimo rapporto sessuale, e le malattie sessualmente trasmissibili. E a un certo punto l'ostetrica le diceva: no, signore, devi chiedere anche alla donna, non devi rispondere tu da solo. E lui diceva: no, ma io so tutto. Ah, caspita, certo. E quindi quanto sia stata preparata prima comunque questo discorso, anche comunque vuol dire anche tutta una gestione anche proprio maschile di Sì. alcune dinamiche anche interne familiari, insomma, è per questo che secondo me è anche importante, soprattutto quando incontro le donne, cercare di avere degli incontri in lingua per non dover passare per questo, in questo caso dal marito. Grazie, ci fermiamo un momento per una pausa musicale. चली गई यार, आ गई चली गई, चेक करके नहीं लाया तू यार। तू हो गई वन टू टू, ओ कुड़िए वन टू टू, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वरगी, तू एवें उड़ी दी, ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी, टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दी या अंग्रेजी पढ़ दी, गिट पिट तू कर दी, जिम्मे तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदो नच पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदो नच पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। Antropologica, la prima trasmissione italiana di antropologia, e siamo qui con Lucia Gentile, siamo a Parigi e in voce con lei, quindi ben ritrovata. Grazie. E allora, Lucia, abbiamo detto, sei un'antropologa, ma sei anche un'indologa, quindi ci hai raccontato di questa tua ricerca, di questo progetto enorme di ricerca veramente molto interessante, che riguarda le donne migranti che provengono dal subcontinente indiano, rispetto alla salute perinatale, ci hai permesso di seguire molte piste e io ritorno un po' alla matrice di questa trasmissione, ritorno all'antropologia e quindi ti chiedo, questa antropologia, che poi è la tua formazione di base, posso dire di base, certo. Come la utilizzi? Come te la sei portata dietro in questa ricerca? Che cosa ti ha dato? Ti ha dato degli strumenti? Ti ha dato dei semi buoni per pensare? Che cosa è l'antropologia per te in questa ricerca di cui ci hai parlato? Beh, grazie per questa domanda, perché posso dire che l'antropologia per me è tutto la mia vita, è il mio quotidiano ormai, e di sicuro quello che cerco e che vorrei cercare di fare è cercare di mostrare come l'antropologia possa dare degli strumenti non solo a me ma a tutti quanti per poter capire un po' meglio anche il mondo adesso sembra così vasto in generale, voglio la pace, sì, del mondo, però, no, però in particolare per esempio per quanto riguarda il mio progetto e cercare il mio scopo, e infatti non l'ho sottolineato prima, ma quello che cerco di fare in verità è una ricercazione, quindi non solo fare una fase di ricerca più teorica e di analisi, ma cercare anche poi dopo di sviluppare degli strumenti, per degli strumenti quindi che grazie all'antropologia permettono quindi in questo caso ai professionisti della salute, ai medici, alle ostetriche, a tutti quelli che accompagnano queste donne in ospedale, a volte anche all'amministrazione, capire meglio quindi le problematiche di queste donne e cercare quindi di ridurre quelle che secondo me comunque sono delle violenze ostetriche, che sono legate proprio da un lato a queste comunque discriminazione linguistica, quindi comunque al fatto che, visto che queste donne non parlano francese, comunque sono seguite in modo diverso che delle persone che parlano francese e in più che sono francesi, ma che sono legate anche per esempio a degli stereotipi comunque culturali legati a queste popolazioni, a queste donne in particolare. Per esempio le donne del subcontinente indiano sono considerate, sono spesso paragonate a donne di altre origini, se per esempio la mamma africana è considerata molto attiva, molto presente rispetto all'educazione del proprio figlio, invece le mamme, le madri del subcontinente indiano, indiane, tamul, sono invece considerate come delle donne passive, che non guarda mai negli occhi, non sai mai se ti stanno ascoltando. Non prendono le iniziative, non seguono gli appuntamenti, quindi vengono agli appuntamenti ma non mostrano nessuna autonomia, sembrano sempre assoggettate al marito, alla famiglia, ubbidiscono agli altri senza però essere attive nella propria salute. E quindi in qualche modo un po' i professionisti hanno un po' questa, diciamo, tendenza a infantilizzare quindi queste donne, a seguirle in modo paternalistico, quindi li scrivono, per esempio un'ostetrica ha affermato visto che queste donne non vogliono, cioè sono pigre, non vogliono andare ai corsi di francese, lei fa dei corsi di francese durante le consultazioni durante la perinatalità, quindi quando incontra queste donne incinta, lei fa dei corsi di francese e al posto che parlarle per esempio inglese, anche se lo sa, lei parla francese, così almeno le donne in quel momento possono imparare un po' di francese, quando effettivamente una consultazione, quando queste donne vengono lì e vogliono capire qual è la loro problematica, se tutto va bene, si ritrovano quindi a dover seguire un corso di francese. Questa, prima hai parlato di violenza ostetrica, più violenza ostetrica di questa, insomma, cioè, mi sembra un interstizio veramente interessante in cui la violenza prende forma, insomma. Assolutamente, credo che sia molto invisibilizzata sia nell'esperienza delle donne stesse sia anche nella rappresentazione comunque del personale medico delle donne stesse, perché molto spesso quello che succede è che le donne comparano comunque i servizi medici francesi ai servizi medici che io ho visto e ho avuto esperienza, ho fatto ricerche in ospedali comunque in India e so com'è partorire in una maternità indiana ed è molto violenta, ma nel senso di violenza fisica, violenza verbale, le donne possono essere picchiate, possono gli si urla contro, eccetera. E quindi spesso le donne, da una parte con la rappresentazione che hanno del sistema medico, comunque del subcontinente indiano, o comunque con l'esperienza diretta che hanno, si ritrovano comunque seguite molto bene secondo i loro standard. Dicono che il personale medico le ascolta, è lì presente, hanno anche un quarto d'ora, 20 minuti di consultazione tutto per loro. Per molte è comunque raro comunque come tipo di ascolto, e quindi alcune invece relazioni, alcune invece discriminazioni di cui sono soggette vengono un po' passate in secondo piano perché si sentono comunque molto ben seguite. Beh, ci hai dato un quadro veramente anche un po' feroce, soprattutto da un lato della consapevolezza di avere a disposizione un sistema sanitario pubblico, nonostante le grettezze, le violenze che ci sono, che vengono agite costantemente nei confronti di donne che provengono da altre latitudini. Ora stiamo parlando delle donne del subcontinente indiano, ma insomma abbiamo parlato con altre colleghe durante varie trasmissioni, ricordo Patrizia Quattrocchi, ricordo Chiara Quagliarello in particolare, appunto delle violenze ostetriche e della razzializzazione, dei corpi razzializzati, di cui dicevamo prima in pausa, certo. di donne che provengono da vari contesti, quindi non soltanto dall'Asia. E mi chiedevo, come antropologa, sei una donna, sei una giovane donna, ma sei madre, sei una professionista, vivi qui a Parigi da moltissimo tempo, hai una carriera e ti interroghi costantemente su molteplici livelli. Non è facile, e non è facile, immagino, lavorare in un contesto simile da donna e da madre. Poi scusami se ti non ballo anche la questione. No, no, no, ma assolutamente ma è un aspetto importante. Mi chiedo se, quindi ritorno un po' all'antropologia, mi chiedo se la disciplina in qualche modo ti resetta un po', cioè se ti dà come dire, un po' degli strumenti per passare da un'eventuale emotività a una struttura solida epistemologica, quindi una teoria della conoscenza che ti contiene un pochino. Certo, volevo soltanto fare un punto che ovviamente, per quanto sia un quadro comunque molto difficile, molto violento, ovviamente non tutti i professionisti della salute sono così, certo, e ci sono comunque certo. delle situazioni comunque vissute serenamente anche dalle donne del subcontinente indiano. Ovviamente quello che, ritornando appunto agli strumenti dell'antropologia, quello che per me l'antropologia permette di fare è cercare anche di vedere, cercare di mettere in luce alcune cose che possono essere nascoste proprio perché alcune volte sottovalutate o alcune volte passano in secondo piano o insomma non si capisce bene l'impatto che si hanno. E di sicuro l'antropologia a me quello che mi permette di fare è cercare sempre di avere uno sguardo comunque molto più olistico e di cercare veramente di comprendere, al di là di accettare comunque la visione, però comunque cercare di avere gli strumenti per comprendere tutti i diversi piani in gioco in quell'incontro, per cercare di capire cosa sta succedendo. E una cosa molto difficile nella mia pratica è di sicuro da una parte il mio posizionamento in quanto comunque e la mia vita, nel senso che ovviamente sono madre, ho anch'io avuto comunque un'esperienza di parto, ho anch'io per esempio dovuto far fronte, sì. Grazie mille, scusa per questo, far fronte comunque a delle relazioni con dei professionisti della salute, cercare anch'io con il mio bagaglio culturale di avere accesso al parto che volevo, che mi immaginavo, che fosse più vicino alle mie rappresentazioni anche del parto e del postparto, eccetera. Quindi quello che comunque l'antropologia cerco di fare è comunque cercare di far fronte anche un po' a questa realtà, nel senso di, da un lato, essere lì come ricercatrice, pur non dimenticando il fatto che sono lì come donna, come madre e come essere umano, perché comunque è di sicuro difficile, almeno nella mia esperienza, sia in India come qui in Francia, alcune volte comunque o vivi o comunque sei in contatto con delle narrazioni molto difficili e non sai anche un po' cosa farci, come prenderle, cosa fare in mezzo alla violenza, per esempio. Una delle cose che ho sempre pensato veramente importanti nella disciplina, me lo dico costantemente, ce lo diciamo sempre fra colleghe, l'importanza veramente della ricercazione è quella di non solo restare su un piano veramente teorico, ma di utilizzare tutti gli strumenti che, come dici ben tu, ci dà la disciplina e che ognuno interpreta anche soggettivamente, utilizza come può, come è capace, come pensa di poter fare, agire in un certo contesto, per far sì che i risultati che provengono dalle nostre ricerche abbiano delle ricadute. Per quello che riguarda noi due, che siamo due antropologhe mediche, io mi considero un'antropologa medica, qui c'è antropologia della salute, un'altra, diciamo, vabbè, non l'apro questa pista, ma è stata nominata già in altre trasmissioni che abbiamo fatto, quindi ricadute in termini di salute. Sono d'accordo, per me questo è un punto molto importante, proprio per questo per esempio sto cercando sempre di più adesso di sviluppare più che ricerche teoriche e basta, proprio delle ricercazioni che abbiano proprio qualcosa di materiale che viene fuori, che può essere per esempio distribuito, che può essere, per esempio adesso collaboro con un'associazione che si chiama Fable Lab, su un progetto appunto finanziato dall'ARS, quindi l'Agence Régionale de Santé, quindi pubblica, sull'impatto appunto più in generale, l'impatto del di non conoscere il francese durante quindi il percorso ostetrico, quindi non solo delle donne, io mi occupo diciamo per lo più delle donne del subcontinente indiano, però è proprio un'analisi più generale in delle donne che non parlano francese. E con questa associazione quindi stiamo cercando di sviluppare, a parte che abbiamo messo in piedi degli atelier di sensibilizzazione per i professionisti della salute, allo stesso tempo mettiamo in piedi anche quelli che abbiamo chiamato gli atelier di difesa, cioè di difesa medica, quindi per cercare di dare degli strumenti alle donne per poter far fronte a queste problematiche legate alla non conoscenza del francese. Per esempio già l'associazione Fable Lab aveva pubblicato degli imagier, quindi dei libri che disegnano, quindi dei dizionari immagini, non so come si chiamano bene in italiano. Non saprei. Ok, quindi c'è, cioè, la parola ma è illustrata, quindi okay. Per cercare di spiegare bene questa parola attraverso il disegno, quindi un utilizzo del disegno, e hanno fatto degli imagier sulla salute delle donne, e a partire da questo imagier è nato tutto questo progetto che mi vede anche parte, proprio per cercare anche poi dopo di avere, grazie anche a tutte le competenze di questa associazione, di produrre proprio degli strumenti materiali che adesso vedremo come prenderanno forma, ma probabilmente, proprio visto che siamo in radio ne possiamo parlare, abbiamo pensato anche proprio a degli audio da condividere, proprio per non passare dalla parola scritta, ma proprio casomai degli audio che possono anche essere trasmessi da WhatsApp su diverse piattaforme difesa, di per poter insomma trasmettere da un lato delle informazioni pratiche a queste donne in diverse lingue, e dall'altro proprio anche, se no in francese, avere per esempio delle parole, delle frasi già pronte per poter trasmettere la propria volontà al personale medico. Mi sembra veramente bellissimo, sarebbe bello se, sai che facciamo il podcast qua di queste trasmissioni, in modo da renderle un po', come dici, anche materiale buono per pensare, per continuare a riflettere, poi per dare la possibilità a chi non ci ha potuto seguire in diretta di riascoltarti, insomma. Sarebbe bello se t'andasse di pensare a un'immagine per il podcast che accompagna questa tua narrazione, magari una di queste immagini di cui ci stai parlando che a tuo avviso è quella che emerge di più o che comunque sia, sì, a tuo avviso, è più significativa anche in questo momento del laboratorio? Sarebbe interessante. Con piacere. Senti, ti pongo, non è una domanda, ma insomma, se continuando un po' su questo filone, ma come ci sei arrivato? Cioè, perché lì? Perché il subcontinente? Perché poi ognuna di noi si innamora di un contesto. Io quando sono andata in Messico avrei delle storie meravigliose da raccontare, un giorno lo farò, un giorno come lo dicevamo farai. Prima, un giorno sì. Riprenderò un giorno la trasmissione per raccontare anch'io la mia antropologia. Ma tu perché il subcontinente indiano? Io dico sempre che mi sa che ero indiana in una vita precedente. Però io effettivamente fin da piccola, e qui lo dico, qui lo ammetto, mi travestivo da indiana, mi mettevo un velo, prendevo il rossetto di mia mamma, mi facevo il terzo occhio e andavo giro, mi facevo finta di avere un sari. Da un lato pensavo che Aladdin fosse ambientato in India, mia ignoranza, vabbè. E però ci sono stati insomma anche altri, mi sono subito innamorata del Mahabharata, ho incominciato a leggerlo a 10 anni, cioè... Ci devi spiegare cos'è però. Il Mahabharata è una delle due grandi poemi epici indiani, è uno, diciamo, uno dei libri più lunghi mai scritti, non so, è lunghissimo. Ed è, beh, per me è una delle storie a cui tengo, vabbè, ci tengo tantissimo, un poema epico, insomma, indiano. E avevo iniziato a vedere non solo film, poi mi sono impassionata di Bollywood, mi sono appassionata proprio tutta della cultura, e mi è nato proprio anche da un attaccamento più dell'infanzia, proprio fin dalla giovinezza. Non so dove abbia radici, se non di sicuro il mio interesse per altre culture, per l'altro, e forse l'India era così diversa da me, ma allo stesso tempo così vicina, che non lo so, mi ci sono appassionata. Aspetta, quindi tu, diciamo, oltre a vivere in Francia da più di 12 anni, dicevamo, hai fatto quanto di campo in India? Beh, devo dire che è dal 2019 che vado in India regolarmente, ho provato ad andarci una volta all'anno, all'inizio si poteva andare solo 3 mesi perché era il tempo del visto turistico, sì. Ma da quando poi dopo ho potuto fare anche il visto di ricerca, non so, per esempio nei miei 3 anni di dottorato ho contato che ci sono stata quasi 18 mesi in India, ed è stato molto bello perché non avevo l'opportunità non solo di stare per solo 3 mesi, ma ad avere proprio dei periodi più lunghi. Poi un po' dopo il Covid, dopo un parto, è stato un po' diverso, ma sono contenta di dire che da un anno e mezzo, 2 anni, sto ritornando a fare ricerche in India su un'altra tematica che è completamente diversa, ma è sempre legata. Sì, con molto piacere. È un progetto un po' segreto. No, ma posso dirlo, ma perché è un po' segreto in India, nel senso che... Se, l'India è sempre molto più difficile andare ad avere dei visti di ricerca, e se in qualche modo conosco delle ricercatrici che adesso non possono più andare in India perché hanno tematiche molto sensibili, è per questo che diciamo che in ambito, diciamo, anglofono alcune robe non posso ancora dirle, però in italiano posso dirle, perché parla di questo mio progetto parla di queste pratiche che vengono fatte prima della gravidanza, durante la gravidanza e nel postparto, fino a, diciamo, 3-6 anni del bambino, dipende dalle varie pratiche, per avere una progenitura superiore, avere dei bambini superiori, quindi delle pratiche che sono considerate pratiche mediche, da alcuni per altre più pratiche religiose, che stanno avendo un grande sviluppo in India negli ultimi anni, a partire nel 2020, sì, no, nel 2010, per avere dei bambini intelligenti, alti, con gli occhi azzurri e la pelle bianca, che abbiano successo nella vita. E indovinate chi è la responsabile del successo dei propri bambini? Il padre? La madre. Ah, beh, no, meno male, perché ero veramente... Beh, dobbiamo comunque preoccuparci, però, perché queste madri vengono iperresponsabilizzate, perché, non so, per quanto riguarda, per esempio, bambini autistici, è colpa della mamma. No, io su questo devo mandare una pausa musicale perché te lo chiedo fuori radio. Grazie Lucia, torniamo immediatamente dopo la pausa musicale. जगमगाती लड़कियां ये दिल मिलाती लड़कियां जिनके दीवाने तुम भी तो हो हंसती गाती लड़कियां खिलखिलाती लड़कियां चाहती सब क्या है ये सुनो इन सब के है मन इनकी धड़कन सुनो जरा सपने क्या है इन आंखों में दिल में है क्या अरमान Girls like to swing बरसात हो गाए पल पल ये जिंदगी पिघले पिघले तन बदन खोया खोया सा हो ये मन छाए छाए हो दिलकश Girls like to swing. Ci ritornate in voce sulle frequenze di Radio Onda Rossa, questa è Antropologica e stiamo ancora qui con Lucia Gentile. Allora Lucia, ti tocca la domanda di rito Mi che tocca. Faccio a tutte e tutti. Allora, l'antropologo non è un lavoro per... Monolingue. E questa sei proprio tu, che sei la persona più poliglotta che io conosca. Grazie Lucia per Grazie tutto, sei stata veramente molto generosa e non è scontato, grazie tanto. È stato veramente un bel momento. Ed eccoci arrivati alla fine della nostra trasmissione di Antropologica, vi lasciamo la programmazione, ringraziamo tutte le persone che ci hanno ascoltato, soprattutto chi è privato della libertà personale. E ricordiamo che Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità e lo fa grazie al sostegno di chi se la sente. Quindi vi invitiamo tutte e tutte ad andare sul sito ondarossa.info e cliccare su Sostieni, individuando la modalità che preferite per poter contribuire, oppure potete anche partecipare alle davvero numerosissime iniziative che organizza la radio. E allora buona serata e a prestissimo con Antropologica.